L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Ventunesima puntata, Bradamante e Marfisa. Lettura poetica di Alberto Lupo. Narratore Gianni Bonagura. Ruggero s'era impegnato con la sua innamorata Bradamante a raggiungerla al più presto, per farsi battezzare cristiano e chiedere la mano ad Amone di Montalbano, suo padre. Ma prima di convertirsi al cristianesimo, Ruggero voleva avere la coscienza a posto come militare maomettano, se no sembrava che cambiasse di religione per sottrarsi al suo dovere. Scrive una lettera a Bradamante spiegandole la cosa e parte per il campo saraceno. Là trova che la discordia è imperversa tra i più illustri commilitoni ed egli stesso è coinvolto in quelle contese intestine. In particolare ha con Mandricardo un duello così violento che pare ci lascino la vita tutti e due. Invece sarà solo il re dei Tartari a morire. Ruggero si salva, ma resterà malconcio per un po'. Intanto Bradamante è al castello di Montalbano che aspetta. Gli imprevisti della vita militare lei li conosce e sebbene frema d'impazienza non perderebbe la sua fiducia in Ruggero per un ritardo sia pur prolungato. Il guaio è che le notizie che arrivano ogni tanto portate da cavalieri di passaggio segnalano sempre la presenza al fianco di Ruggero di un'altra guerriera, la saracena Marfisa. Con Marfisa Ruggero è partito per il campo, insieme a lei ha combattuto. È stata lei a curarlo delle ferite di Mandricardo. I pettegolezzi degli accampamenti fanno presto a correre per tutta la Francia e non tardano a far breccia nel cuore di Bradamante, straziandola di gelosia e di rabbia. Tradirla, e per di più con una guerriera come lei, con la sua più diretta emula e avversaria. Dalla rabbia, Bradamante passa alla disperazione e arriva al punto di rivolgere contro se stessa la spada. Ma l'angelo custode le ferma la mano e la esorta a sfogare il suo risentimento combattendo, sfidando il fedifrago Ruggero e la rivale Marfisa. Bradamante si mette in strada verso il campo da Gramante. Presso a Parigi i saraceni hanno avuto una gran rotta e ora si sono ritirati ad Arles, in Provenza. Durante il viaggio Bradamante, come al solito, ha occasione di compiere prodi e magnanime imprese, ma le compie con malinconia e distacco, con la mente altrove. Una di queste imprese è niente meno che il rituale duello che Rodomonte impone a tutti i cavalieri sul ponte da lui custodito. È la trepidante Fiordiligi che l'ha chiamata, perché liberi il suo sposo Brandimarte, che nel duello con Rodomonte è stato sconfitto e preso prigioniero. Il re d'Algeri non ha mai avuto fortuna con le donne. Bradamante lo vince e lui s'arrabbia tanto che si strappa l'armatura e la calpesta e va a nascondersi in una grotta. Bradamante recupera Frontino, il cavallo di Ruggero, ma non riesce a liberare Brandimarte. Già Rodomonte aveva fatto trasportare i suoi prigionieri in Algeria. La desolata Fiordiligi vuole imbarcarsi ad Arles per seguire lo sposo e Bradamante, visto che passa di lì, la prega di restituire il cavallo a Ruggero e recapitargli nello stesso tempo un'anonima sfida a duello. «Io m'offerisco», disse Bradamante, «d'accompagnarti un pezzo della strada, tanto che tu ti vegga Arli davante, ove per amor mio vo che tu vada a trovar quel Ruggier del re Agramante che del suo nome ha piena ogni contrada, e che gli rendi questo buon destriero onde abbattuto ho il saracino altiero. Voglio ch'appunto tu gli dica questo. Un cavalier che di provarsi crede e fare a tutto il mondo manifesto che contra lui sei mancator di fede, a ciò ti trovi apparecchiato e presto questo destrier per ch'io tel dia mi diede. Dice che trovi tua piastra e tua maglia e che l'aspetti a far teco battaglia. Digli questo e non altro, e se quel vuole saper da te ch'io son, di che non sai. Quella rispose umana come suole. Non sarò stanca in tuo servizio mai spender la vita, nonché le parole, che tu ancora per me così fatto hai. grazie le rende Bradamante e piglia Frontino e glielo porge per la briglia. Lungo il fiume le belle e pellegrine giovani vanno a gran giornate insieme, tanto che veggono Arli e le vicine rive odon risonar del mar che freme. Bradamante si ferma alle confine quasi de borghi e dalle sbarre estreme per dare a Fiordiligi atto intervallo che condurre a Ruger possa il cavallo. Vien Fiordiligi ed entra nel rastrello, nel ponte e nella porta, e seco prende chi le fa compagnia fino all'ostello ove abita Ruggero, e qui vi scende, e secondo il mandato al damigello fa l'imbasciata e il buon Frontin gli rende. Indi va, che risposta non aspetta, ad eseguire il suo bisogno in fretta. Ruggero riman confuso, in pensier grande, e non sa ritrovar capo né via di saper chi lo sfide e chi gli mande a dire oltraggio e a fargli cortesia. Che costui senza fede lo domande o possa domandar uomo che sia, non sa vederne immaginare, e prima ch'ogni altro sia che Bradamante istima. Che fosse Rodomonte era più presto ad aver che fosse altri opinione, e perché ancor da lui debba udir questo, pensa né immaginar può la cagione. Fuor che con lui non sa di tutto il resto del mondo con chi lite abbia e tenzone. Intanto la donzella di Dordona chiede battaglia e forte il corno suona. Ruggero tenne lo invito allegramente e l'armatura sua fece venire. Or mentre che s'armava il re presente, tornaron quei signor di nuovo a dire chi fosse il cavalier tanto eccellente che di lancia sapea si ben ferire. E Ferraù, che parlato gli avea, fu domandato se lo conoscea. Rispose Ferraù: «Tenete certo che non è alcun di quei che avete detto. A me parea, ch'il vidi a viso aperto, il fratel di Rinaldo Giovinetto, ma poi ch'io no l'alto valore esperto e so che non può tanto Ricciardetto, penso che sia la sua sorella, molto per quel ch'io nodo a lui simil di volto. Ella ha ben fama d'esser forte a pare del suo Rinaldo ed ogni paladino, ma per quanto io ne veggo oggi mi pare che val più del fratel, più del cugino». Come Ruggier lei sente ricordare del vermiglio color che il matutino sparge per l'aria, si dipinge in faccia e nel cor triema e non sa che si faccia. A questo annunzio, stimolato e punto dall'amoroso stral, dentro infiammarse e per l'ossa sentì tutto in un punto correre un giaccio che il timor vi sparse, timor con nuovo sdegno abbia consunto quel grande amor che già per lui si larse. Di ciò confuso non si risolveva, si incontra uscirle oppur restar doveva. Or quivi ritrovandosi Marfisa, che d'uscire alla giostra avea gran voglia ed era armata perché in altra guisa è raro o notte o dì che tu la coglia, sentendo che Ruggero s'arma, s'avvisa che di quella vittoria ella si spoglia se lascia che Ruggero esca fuor prima. Pensa a ire innanzi e averne il pregio stima. Salta a cavallo e vien spronando in fretta ove nel campo la figlia d'Amone con palpitante cor Ruggero aspetta, desiderosa farselo prigione, e pensa solo ove la lancia metta perché del colpo abbia minor lesione. Marfisa se ne vien fuor della porta e sopra l'elmo una fenice porta, ossia per sua superbia dinotando se stessa unica al mondo in esser forte, o pur sua casta intenzion lodando di viver sempre mai senza consorte. La figliuola d'Amon la mira, e quando le fattezze ch'amava non ascorte, come si nomi le domanda, ed ode esser colei che del suo amor si gode. O per dir meglio, esser colei che crede che goda del suo amor, colei che tanto ha in odio e in ira, che morir si vede se sopra lei non vendica il suo pianto. Volta il cavallo, e con gran furia riede, non per desir di porla in terra, quanto di passarle con l'asta in mezzo il petto, e libera restar d'ogni sospetto. Forza è a Marfisa che a quel colpo vada a provar se il terreno è duro o molle, e cosa tanto insolita le accada ch'ella n'è per venir di sdegno folle. Fu in terra appena che trasse la spada e vendicar di quel cader si volle. La figliuola d'Amon non meno altiera gridò: Che fai? Tu sei mia prigioniera. Sebbene uso con gli altri cortesia, usar te come Marfisa non la voglio, come a colei che d'ogni villania odo che sei dotata e d'ogni orgoglio. Marfisa quel parlar fremer s'udia, come un vento marino in uno scoglio. Grida, ma sì per rabbia si confonde che non può esprimer fuor quel che risponde. Mena la spada, e più ferir non mira lei che il destrier nel petto e nella pancia, ma Bradamante al suo la briglia gira, e quel da parte subito si lancia, e tutto a un tempo con isdegno e ira la figliuola d'Amon spinge la lancia, e con quella Marfisa tocca appena che la fa riversar sopra l'arena. Appena ella fu in terra che rizzosse, cercando far con la spada malopra, di nuovo l'asta Bradamante mosse, e Marfisa di nuovo andò sozzopra. Benché possente Bradamante fosse, non però sia Marfisa era di sopra che l'avesse ogni colpo riversata, ma tal virtù nell'asta era incantata. Alcuni cavalieri in questo mezzo, alcuni dico della parte nostra, se n'erano venuti dove in mezzo l'un campo e l'altro si facea la giostra, che non eran lontani un miglio e mezzo, veduta la virtù che il suo dimostra, il suo che non conoscono altrimente che per un cavalier della lor gente. Questi vedendo il generoso figlio di Troiano alle mura approssimarsi, per ogni caso, per ogni periglio, non volse sprovveduto ritrovarsi, e fe che molti allarme dier di piglio, e che fuor dei ripari a presentarsi. Tra questi fu Ruggero, a cui la fretta di Marfisa la giostra avea intercetta. L'innamorato giovane mirando stava il successo, gli tremava il cuore della sua cara moglie dubitando, che di Marfisa ben sapea il valore. Dubitò, dico, nel principio quando si mosse l'una e l'altra con furore, ma visto poi come successe il fatto, restò maraviglioso e stupefatto. E poi che fin la lite lor non ebbe come avean l'altre avute al primo incontro, nel cor profondamente gli n'encrebbe, dubbioso pur di qualche strano incontro. Dell'una egli e dell'altra il ben vorrebbe, cama amendue, non che da porre incontro sia in questi amori, è l'un fiamma e furore, l'altro benivolenza più ch'amore. Partita volentier la pugna avria, se con suo onor potuto avesse farlo, ma quei che egli avea seco in compagnia, perché non vinca la parte di Carlo, che già lor par che superior ne sia, saltan nel campo e vogliono turbarlo. Dall'altra parte i cavalier cristiani si fanno innanzi e son quivi alle mani. Di qua, di là, a gridar si sente allarme, come usati a ranfar quasi ogni giorno. Monti chi è a pie, chi non è armato s'arme, alla bandiera ognun faccia ritorno, dicea con chiaro e bellicoso carme più d'una tromba che scorrea d'intorno. E come quelle svegliano i cavalli, svegliano i fanti, i timpani e i taballi. La scaramuccia fiera e sanguinosa quanto si possa immaginar si mesce. La donna di Dordona valorosa, a cui mirabilmente aggrava e incresce che quel di che era tanto disiosa di por Marfisa morte non riesce, di qua di là si volge e si raggira, se Rugger può veder, per cui sospira. Lo riconosce all'aquila d'argento, cane lo scudo azzurro, il giovinetto. Ella con gli occhi e col pensiero intento si ferma a contemplar le spalle, il petto, le leggiadre fattezze, il movimento pieno di grazia, e poi con gran dispetto, immaginando ch'altra me gioisse, da furore assalita così disse. Dunque baciarsi belle e dolce labbia deve altra, se baciar non le possio. Ah, non sia vero già ch'altra mai t'abbia, che d'altra esser non dei se non sei mio. Piuttosto che morir sola di rabbia, che meco di mia mamma mori disio, che se ben qui ti perdo, almen l'inferno poi mi ti renda, e stii meco in eterno. Se tu m'occidi, è ben ragion che deggi darmi della vendetta anco conforto, che voglion tutti gli ordini e le leggi che chi da morte altrui debba esser morto. Né par canco il tuo danno il mio pareggi, che tu mori a ragione, io moro a torto. Farò morir chi brama, oimè, chi io muora, ma tu, crudel, chi t'ama e chi t'adora. Perché non dei tu, mano, essere ardita d'aprir col ferro al mio nemico il core, che tante volte a morte m'ha ferita sotto la pace in sicurtà d'amore, ed or può consentir tormi la vita, neppure aver pietà del mio dolore? Contra questo empio ardisci, animo forte, vendica mille mie con la sua morte. Gli sprona contra in questo dir, ma prima guardati, grida perfido Ruggero, tu non andrai, s'io posso, della opima spoglia del cor d'una donzella altiero. Come Ruggero ode il parlare, estima che sia la moglie sua, com'era in vero, la cui voce in memoria si bene ebbe, chi mille riconoscerla potrebbe. Ben pensa quel che le parole denno voler inferir più, che ella l'accusa che la convenzion che insieme fenno non le osservava, onde per farne iscusa di volerle parlar le fece cenno. Ma quella già con la visiera chiusa venia dal dolor spinta e dalla rabbia per porlo, e forse ove non era sabbia. Quando Ruggier la vede tanto accesa, si ristringe nell'arme e nella sella, la lancia arresta, ma la tien sospesa, piegata in parte ove non nuoccia a quella. La donna, ch'a ferirlo e a fargli offesa venia con mente di pietà rubella, non poté sofferir come fu appresso di porlo in terra e fargli oltraggio espresso. Così lor lance van d'effetto vote a quello incontro, e basta ben s'amore con l'un giostra e con l'altro, e gli percuote d'una amorosa lancia in mezzo il core. Poiché la donna sofferir non puote di far onta a Ruggier, volge il furore che l'arde il petto altrove, e vi fa cose che saran finché giri il ciel famose. In poco spazio ne gittò per terra 300 e più con quella lancia d'oro. Ella sola quel dì vinse la guerra, messe ella sola in fuga il popol moro. Ruggier di qua di là s'aggira ed erra tanto che se le accosta e dice: «Io moro, se io non ti parlo. Oimè, che t'ho fatto io che mi debbi fuggire? Odi per Dio!» Come ai meridional tiepidi venti che spirano dal mare il fiato caldo, le nievi si disciolvono e i torrenti e il ghiaccio che pur dianzi era si saldo, così a quei prieghi, a quei brevi lamenti, il cor della sorella di Rinaldo subito ritornò pietoso e molle, che l'ira più che marmo indurar volle. Non vuol dargli o non puote altra risposta, ma da traverso sprona Rabicane, quanto può dagli altri si discosta, e da Ruggero accenna con la mano. Fuor della moltitudine in reposta valle si trasse, ov'era un piccol piano che in mezzo avea un boschetto di cipressi, che parean d'una stampa tutti impressi. In quel boschetto era di bianchi marmi fatta di nuovo un'alta sepoltura. Chi dentro giaccia era con brevi carmi notato a chi saperlo avesse cura. Ma qui vi giunta Bradamante parmi che già non pose mente alla scrittura. Ruggier dietro il cavallo affretta e punge tanto ch'al bosco e alla donzella giunge. Ma ritorniamo a Marfisa che s'era in questo mezzo in sul destrier rimessa, e venia per trovar quella guerriera che l'avea al primo scontro in terra messa, e la vide partir fuor della schiera, e partir Ruggier vide e seguiressa. Né si pensò che per amor seguisse, ma per finir con l'arme ingiurie risse. Urta il cavallo, e vien dietro la pesta tanto ch'a un tempo con lor quasi arriva. Quanto sua giunta ad ambi sia molesta, chi vive amando il sa, senza ch'io il scriva. Ma Bradamante offesa più ne resta che colei vede onde il suo mal deriva. Chi le può tor che non creda esser vero che l'amor ve la sproni di Ruggero? E perfido Ruggier di nuovo chiama. Non ti bastava, perfido, disse ella, che tua perfidia sapessi per fama se non mi facevi anco veder quella. Di cacciarmi da te veggo ch'hai brama, e per sbramar tua voglia iniqua e fella io vo morir, ma sforzerommi ancora che muora meco chi è cagion ch'io mora. Sdegnosa più che vipera si spicca così dicendo e va contra Marfisa, e dallo scudo l'asta sì le appicca che la fa dietro riversare in guisa che quasi mezzo l'elmo in terra ficca. Né si può dir che sia colta improvvisa, anzi fa incontra ciò che far si puote, eppure in terra del capo percuote. La figliuola d'Amon che vuol morire o dar morte a Marfisa è in tanta rabbia che non ha mente di nuovo a ferire con l'asta, onde agitar di nuovo l'abbia, ma le pensa dal busto di partire il capo mezzo fitto nella sabbia. Getta da sé la lancia d'oro e prende la spada e del destrier subito scende. Ma tarda è la sua giunta, che si trova Marfisa incontra, e di tanta ira piena, poiché s'ha vista la seconda prova cadersi facilmente sull'arena, che pregar nulla e nulla gridar giova Ruggier che di questo avea gran pena, si l'odio e l'ira le guerriere abbaglia che fan da disperate la battaglia. A mezza spada vengono di botto, e per la gran superbia che l'ha accese van pur innanzi e si son già si sotto, ch'altro non può anche venire alle prese. Le spade, il cui bisogno era interrotto, lascian cadere e cercan nuove offese. Priega Ruggero e supplica Mendue, ma poco frutto han le parole sue. Quando pur vede che il pregar non vale, di partirle per forza si dispone. Leva di mano ad Amendue il pugnale e dal piede un cipresso li ripone. Poiché ferro non han più da far male, con prieghi e con minacce s'interpone. Ma tutto è in van, che la battaglia fanno a pugni e a calci, poi ch'altro non hanno. Ruggero non cessa. Or l'una, or l'altra prende per le man, per le braccia, e la ritira, e tanto fa che di Marfisa accende contra di sé quanto si può più l'ira. Quella che tutto il mondo vilipende, alla amicizia di Rugger non mira. Poi che da Bradamante si distacca, corre alla spada, e con Rugger s'attacca. Tu fai da discortese, da villano, Ruggero, a disturbar la pugna altrui, ma ti farò pentir con questa mano, che vo' che basti a vincervi ambedui. Cerca Rugger, con parlar molto umano, Marfisa mitigar, ma contra lui la trova in modo disdegnosa e fiera, con perder tempo ogni parlar seco era. All'ultimo Rugger la spada trasse, poiché l'ira anco lui fe rubicondo. Non credo che spettacolo mirasse Atene o Roma, o luogo altro del mondo, che così a riguardanti dilettasse, come dilettò questo, e fu giocondo alla gelosa Bradamante, quando questo le pose ogni sospetto in bando. La sua spada avea tolta ella di terra, e tratta s'era a riguardar da parte, e le parea veder che il dio di guerra fosse Ruggero alla possanza e all'arte. Una furia infernal quando si sferra sembra Marfisa, se quel sembra Marte. Vero è che un pezzo il giovane Gagliardo di non fare il potere ebbe riguardo. Sapea ben la virtù della sua spada, che tante esperienze n'ha già fatto. Ove giunge convien che se ne vada l'incanto, o nulla giovi e stia di piatto. Sì che ritien che il colpo suo non cada di taglio o punta, ma sempre di piatto. Ebbe a questo Rugger lunga avvertenza, ma perde pure un tratto la pazienza, perché Marfisa una percossa orrenda gli mena per dividergli la testa. Leva lo scudo che il capo difenda, Ruggero, e il colpo in su l'aquila pesta. Vieta l'un canto che lo spezzi offenda, ma di stordir non però il braccio resta. E s'avea altr'arme che quelle de torre, gli potea il fiero colpo il braccio torre, e saria sceso indi alla testa, dove disegnò di ferir l'aspra donzella. Ruggero il braccio manco appena muove, appena più sostien l'aquila bella. Per questo ogni pietà da sé rimuove, par che negli occhi avampi una facella, e quanto può cacciar, caccia una punta. Marfisa, mal per te se n'è rigiunta. Io non vi so ben dir come si fosse. La spada andò a ferire in un cipresso, e un palmo e più nell'arbore cacciosse, in modo era piantato il luogo spesso. In quel momento il monte e il piano scosse un gran tremuoto, e si sentì con esso da quella vel che in mezzo il bosco siede, gran voce uscir, ch'ogni mortale eccede. Grida la voce orribile, «Non sia lite tra voi! Gli è ingiusto ed inumano ch'alla sorella il fratel morte dia», o la sorella uccida il suo germano. Tu, mio Ruggero, e tu, Marfisa mia, credete al mio parlar che non è vano. In un medesimo utero d'un seme foste concetti e usciste al mondo insieme. La voce d'oltretomba, che rivela che Ruggero e Marfisa sono fratelli gemelli, è quella del mago Atlante, sepolto proprio lì. Dal suo avello, egli racconta come il re loro padre fu ucciso per tradimento dei fratelli, passati alla parte maomettana, e come la madre li diede alla luce, morendo, naufraga, sulla riva delle Sirti. Il mago Atlante allevò insieme i due gemelli, finché una masnada di arabi non rapì Marfisa. La gelosia di Bradamante, che provocò la splendente zuffa tra le due guerriere, non ha più ragione di essere. Marfisa le sarà cognata. Ha già deciso di convertirsi in mantinenti al cristianesimo e di combattere al fianco dei paladini per vendicare l'assassinio di suo padre. Bradamante s'aspetta che Ruggero faccia altrettanto, ma Ruggero continua a essere legato al programma di priorità che si è fissato. Prima di prendere congedo da re Agramante, vuol compiere un atto di valore in battaglia al suo servizio, per sdebitarsi con lui. La stolta contesa con Mandricardo e le ferite ricevute gli avevano impedito fin qui di adempiere al suo debito. Bradamante e il destino devono pazientare ancora. Abbiamo trasmesso la 21esima puntata dell'Orlando Furioso di Lodovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.